Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, 13:33 minuti, è questa l'ora di Italia in controluce e questa però è una settimana nella quale si deve parlare bene o male di politica e di elezioni. No, perché la Russa non faccia quella faccia, perché in questi giorni dicono che a Milano qualcuno stia pagando dei figuranti vestiti da zingari per spaventare i milanesi. Pare che Milano sia piena di figuranti. Figuranti che si fingono zingari, figuranti che si fingono ragazzi dei centri sociali, figuranti anziani che si fingono anziani indignati per i figuranti che si fingono zingari. Ci sono anche zingari che si fingono figuranti per imbucarsi al catering dei figuranti. È il Truman Show! Alla fine del ballottaggio, se tu vai in piazza del Duomo e urli stop, buona la prima, pausa di 5 anni, la pausa, la piazza si svuota. Dunque, domenica e lunedì si vota per i ballottaggi delle amministrative. Quello che avete appena sentito era Maurizio Crozza ieri sera a Ballarò commentando le ultime sulla infuocata campagna milanese. Pisapia ha denunciato l'esistenza di figuranti che si fingono rom, altri si fingono tecnici del comune che vanno a prendere le misure per una ipotetica moschea. Ma a parte Milano, in molte città si è già scelto, i primi cittadini sono già stati eletti. Allora proseguiamo il nostro viaggio proprio nelle nuove città dopo le elezioni. Oggi siamo in Campania, mettiamo a confronto Benevento, andata al centro-sinistra, e Caserta, vinta invece dal centro-destra. Iniziamo da Benevento a conoscere il primo cittadino, Fausto Pepe, al secondo mandato è stato riconfermato con il 51,7%, lo sostiene un'ampia alleanza da SEL di Vendola all'API di Rutelli, passando per il PD e l'Italia dei Valori. L'intervista a Fausto Pepe è di Jacopo Matano. Dobbiamo completare la riqualificazione urbana dei quartieri, dobbiamo completare il progetto di raccolta differenziata della città, anche se siamo oramai al 65% di raccolta differenziata, per la Campania è una cifra enorme. Dobbiamo completare il progetto di realizzazione di 800 nuovi alloggi sociali e dobbiamo ottenere il riconoscimento della candidatura all'UNESCO per quanto riguarda la storia dei Longobardi di questa città. Ho visto che in campagna elettorale si è molto parlato del programma integrato urbano, cos'è? Ma il PIO è strettamente legato a lavori di riqualificazione di due importanti quartieri nella città di Benevento, il Rione Libertà e il Rione Ferrovia. Stiamo andando avanti sia con i lavori che con altre gare che stiamo completando in questo frangente ed sono circa 42 milioni di euro per oltre 10 importanti lavori di riqualificazione urbana, un'assoluta novità per la città di Benevento. Negli anni passati la sua gestione della città è stata tormentata per via della sua appartenenza all'Udeur e dell'indagine che nel 2008 l'ha portata ad essere addirittura sottoposto agli arresti domiciliari assieme ad altri esponenti del partito di Mastella per un'inchiesta sugli appalti e le consulenze. Lei poi ha abbandonato il partito ed è passato con il centrosinistra. Cosa è rimasto di quell'episodio e che rapporti e che rancori ci sono ancora con Mastella? Ma innanzitutto devo dire che io sono l'unico che è uscito indenne da questa vicenda. Dopo 8 giorni lo stesso magistrato che dispose quelle misure cautelari le ha revocate e quindi per me non c'è stato più nulla come esito di tutta questa vicenda. Dopodiché io sono rimasto nel centro-sinistra, come è giusto che fosse, visto che avevo vinto con il centro-sinistra, mentre Mastella e l'Udeur sono andati nel centro-destra. Di rancori da parte mia non è rimasto nulla. Ho dimostrato che ero pulito, sono rimasto pulito e sono rimasto peraltro coerente alla mia coalizione, gli altri fanno quello che vogliono della loro vicenda politica. Senta, lei ha parlato di completamento della raccolta differenziata, di housing sociale, di altri provvedimenti amministrativi. Benevento però sarà uno dei comuni più penalizzati dall'introduzione del federalismo fiscale. Dovrete rinunciare ad una cospicua parte di quello che è il vostro bilancio. Come farete? Sì, abbiamo circa il 50% delle entrate in meno, siamo il 10° comune più penalizzato. Chiaramente gli altri 9 le lascio immaginare che sono tutti del sud. Affrontiamo questo problema con grande senso di responsabilità, bisogna lavorare molto sul piano locale, incrementare le attività produttive, i gettiti delle attività produttive di Benevento e poi dobbiamo rivedere tutti gli atteggiamenti sulla spesa, perché evidentemente vanno concentrate le spese sui servizi importanti, essenziali ai cittadini. Aumenterete ancora la tariffa sui rifiuti come negli anni passati? Abbiamo aumentato la tariffa molto nel 2009, quando abbiamo iniziato il progetto di raccolta differenziata. Poi l'abbiamo diminuito già nel 2010 e ulteriormente quest'anno nel 2011, per cui anche in questo abbiamo dimostrato che quando si opera bene si possono fare anche riduzioni delle tariffe. Bene, la mia ultima domanda: quale sarà il primo provvedimento che firmerà da sindaco riconfermato? Sarà l'atto di portare in Consiglio Comunale il piano regolatore della città di Benevento, che ovviamente servirà da volano per lo sviluppo urbanistico della città di Benevento, che attende un piano regolatore da oltre 30 anni e noi lo teniamo già pronto. Italia in controluce. Restiamo in Campania, abbiamo sentito Benevento, città amministrata dal centro-sinistra, adesso andiamo a Caserta, 79.000 abitanti, passata dal centro-sinistra al centro-destra. Il primo cittadino eletto è Pio Del Gaudio, ha ottenuto il 52,7% dei consensi, è sostenuto in questo caso anche lui da un'ampia coalizione, 11 liste, dalla destra di Storace ai centristi di Casini, passando per il PSI, Forza Sud e il PDL. Sentiamo. Ridare il sorriso alla mia città, ridare il sorriso ai casertani, ovviamente prima di tutto dandogli risposte immediate su quella che è la situazione economico-finanziaria, che sappiamo tutti essere disastrosa. Posso confermare che è tale dalle analisi che abbiamo fatto in questi 2-3 giorni. Dopo lo scioglimento della scorsa amministrazione ci sono stati mesi di commissariamento, i conti del comune sono in rosso, a quanto ammonta il buco? I conti del comune sono in rosso, no, il buco lo stiamo ancora verificando, ma è intorno ai 70-80 milioni di euro, quindi la situazione è molto molto critica. Quindi al di là delle valutazioni poi tecniche sul dissesto o meno, però dovendo dire la verità ai casertani bisogna dire che dovranno fare enormi sacrifici. Quindi questa è la prima cosa. Secondo, sfrutterò al meglio la sinergia istituzionale, l'appuntamento col governatore Caldoro della regione Campania, con tutti gli assessori. Questa stessa cosa l'ho chiesta anche agli amici della provincia e soprattutto ai parlamentari con i ministri, perché la nostra è una città che ha tantissime risorse importanti in termini paesaggistici, naturali, culturali, però vanno messe a reddito e per poterle mettere a reddito, quindi ad esempio incrementare il turismo, abbiamo bisogno di un aiuto. Ovviamente noi non andremo con la mano tesa, col cappello insomma, a chiedere l'elemosina, ma sempre sulla base di progetti, di programmi, di proposte concrete. Ecco, proprio partendo da questo, cioè dal turismo, dallo sviluppo del territorio, e le chiedo anche dallo sviluppo industriale di Caserta, quali sono i primi provvedimenti che metterete in pratica? Sullo sviluppo industriale noi come punto centrale dobbiamo aiutare la piccola e media impresa che è a Caserta, il piccolo commercio e i servizi. Intanto daremo impulso a un'area industriale PIP, che è l'area industriale di San Benedetto, che l'amministrazione di centro-sinistra negli ultimi 5 anni ha trascurato. Poi devo lavorare per, portando i turisti a Caserta, incentiverò il piccolo commercio, i servizi, perché Caserta comunque deve essere una città turistica, cioè una città che ha il Belvedere di San Leo, cioè la Veggia, Caserta Vecchia, tantissime frazioni, tutte quante con tipicità particolari, non può non essere una città turistica. Ecco, però tutto questo dovrà fare i conti poi con quello che è il grande problema di Caserta e della sua provincia, che è quello delle infiltrazioni camorristiche, della presenza della camorra sul territorio. Allora, io però le dico questo, la città di Caserta non ha le problematiche che ha la provincia di Caserta. La città di Caserta è una città, diciamo, sana, dove però chi amministra deve fare in modo che tale rimanga in effetti. Per questo ho parlato col prefetto, ho parlato con il questore, siamo tutti sulla stessa linea chiaramente, quindi è chiaro che la legalità è fondamentale, non si discute. Nella mia città ci sono troppe persone che guadagnano parlandone male. Senta, Berlusconi a Napoli ha detto stop alle demolizioni fino alla fine dell'anno, lei è d'accordo con questa affermazione e la applicherebbe anche a Caserta? Sì. Berlusconi, io c'ero, ha detto stop alle demolizioni, costruiamo un percorso per far sì che poi chi ha la casa demolita vada da un'altra parte. Noi non abbiamo una situazione come quella napoletana, grazie al cielo, però se io tolgo la casa a qualcuno devo pormi il problema di dove andare a dormire, se io tolgo il lavoro a qualcuno devo spiegargli dove andare a lavorare. Cioè il sindaco deve essere il buon padre di famiglia, deve avere la diligenza del buon padre di famiglia. E come si concilia poi però con uno sviluppo armonioso uso del territorio. Ma no, ma sicuramente, cioè allora, chi ha costruito abusivamente, però grazie al cielo nella mia città non ci sono questi problemi, va perseguito in modo forte e gli immobili vanno abbattuti, su questo non si discute, ne vanno fatti altri, chi ha costruito abusivamente va in galera, questo è fuori discussione, chi abita in costruzioni abusive va tutelato. E vi abbiamo raccontato Benevento, vi abbiamo raccontato Caserta, però la Campania e le elezioni in Campania sono soprattutto il ballottaggio tra Lettieri e De Magistris. Questa però è un'altra storia, ve la racconteremo a partire dal lunedì pomeriggio. Intanto scriveteci controluce@radio24.it. Buona giornata, ci sentiamo domani.